Artù restituisce la sua spada. I giorni dei cavalieri della Tavola Rotonda appartengono al passato. Quei giorni eroici in cui valorosi cavalieri cavalcavano in battaglia contro giganti e tiranni e in cui Artù usava la sua spada magica Excalibur sono finiti ormai. Non ci sono più né Artù, né i cavalieri, né Excalibur. Sono tutti caduti come foglie d'inverno, eppure le loro storie rimangono vive come un albero dai molti rami. Quando Artù si imbarcò per andare a combattere in Francia, lasciò l'Inghilterra alle cure di un nipote, Sir Mordred, uomo di carattere debole che non aveva mai avuto tanto potere prima di allora. Quando Mordred cinse la corona d'Inghilterra e prese il posto di Artù intorno alla Tavola Rotonda, disse: «È proprio bello sedere al posto del re, ma sarebbe ancor più bello possedere la sua corona, il suo trono e i suoi castelli». Riunì così un esercito di cavalieri di poco valore, gente che Artù aveva bandito o imprigionato. A lui si unì la sorellastra del re, Morgana la traditrice, che portò con sé dalla terra del sangue i cavalieri neri. Queste brutte nuove raggiunsero Artù in Francia ed egli si affrettò a riprendere il mare per ritornare in patria a combattere Mordred e Morgana, sua nemica giurata. Fu una battaglia terribile e terrificante. Cavalieri buoni e cavalieri cattivi si affrontarono con spade, lance, mazze ed asce. Tutti gli uomini di Mordred vennero uccisi. La maga Morgana, quando si rese conto che la battaglia era perduta irrimediabilmente, disertò il campo e visse sola nel regno del sangue, finché la sua magia sparì e sopravvenne la morte. Alla fine della sanguinosa battaglia, gli unici superstiti erano Sir Mordred, Artù e un giovane prode cavaliere, Sir Bedevere. Mordred colpiva Artù col suo enorme spadone, ma il re, con la spada magica Excalibur, apriva larghe fenditure nella corazza di Mordred. Artù, superando il fragore delle armi, gridò forte: «Muori, traditore! Excalibur è l'arma più micidiale che mai sia stata usata in battaglia!» Mordred cadde in ginocchio. «Dov'è la guaina fatata che deve proteggerti dalle ferite? Non è forse stata tua sorella a rubartela? Sì, si è persa per sempre nel nero limo dell'acquitrino!» E afferrando a due mani la spada, colpì Artù direttamente al cuore. Poi cadde a faccia in giù e morì. Vedendo il suo re colpito a morte, Sir Bedevere lo soccorse e lo prese fra le braccia. «Vado a cercare Merlino, signore, lui vi guarirà!» singhiozzava il giovane cavaliere. «No, ragazzo mio, sono stanco, ho fatto la mia parte. Tutti i malvagi cavalieri che infestavano l'Inghilterra sono morti e tu sei rimasto vivo per poter narrare la mia storia. Sono pronto al riposo ora, ma ho un ultimo ordine per te. Portami via da questo luogo orribile». Con la mano segnalò uno stretto sentiero. Il giorno declinava. Dolcemente Bedevere sorreggeva il re lungo il sentiero che conduceva a una chiesa diroccata vicino a un lago che scintillava sotto la luna. «Questo non è un luogo adatto per un re ferito», sussurrò Sir Bedevere. «Voi avete bisogno di un letto pulito e di cure». Ma Artù chiese di riposarsi un attimo fra le rovine. Si slacciò il cinturone che portava intorno alla vita e gli tese Excalibur. «Prendi la mia spada, Bedevere. Ho finito di usarla. Portala al lago e gettavela dentro». «Gettare Excalibur nel lago?» Il giovane cavaliere inorridì, poi pensò: «Il re sta vaneggiando. Rimpiangerà il suo ordine quando tornerà in sé». Portò la spada fino al lago, ma invece di gettarla nelle acque scintillanti, la nascose ai piedi di un albero. Quando lo vide tornare, il re chiese: «Allora, l'hai gettata?» «Sì, signore». «E cos'è successo?» «Ma non è successo niente, signore. Il vento soffiava fra le canne e le rane gracidavano». Malgrado le ferite, il re gridò: «Mi hai disobbedito! Non l'hai gettata!» Tentò di mettersi in piedi, ma era troppo debole. Torna laggiù, getta la spada nel lago, ragazzo. Fai come ti dico. Bedevere corse all'albero e riprese la spada. Era così bella. L'elsa era fulgida di gioielli, dai quali la luna traeva scintille. Fece mulinare la spada intorno alla testa per prendere lo slancio, ma non si risolse a gettarla. La nascose sotto un cespuglio e tornò indietro ancora una volta. «Allora, cosa è successo?» chiese severamente il re. «L'ho gettata, signore. Ha fatto un grande splash e gli usignoli hanno smesso di cantare». «Bugiardo! Traditore! Ma dunque anche il solo cavaliere che mi è rimasto è un bugiardo che rifiuta di obbedire ai miei ordini. Devo dunque andare io a gettarla?» Ser Bedevere, amareggiato dal rimorso, non riuscì a rispondere. Corse più lesto che poté, afferrò Excalibur e la gettò nel lago. Appena l'elsa toccò l'acqua, un braccio di donna, ricoperto di seta bianca, sorse dal lago e l'afferrò. La mano brandì la spada per 3 volte e poi la trascinò sott'acqua, da dove non ricomparve mai più. Senza fiato dallo stupore, Ser Bedevere corse dal re Artù e gli raccontò quel che aveva visto. Artù sorrise e carezzò i capelli del ragazzo. «Hai agito bene. Excalibur non mi apparteneva, sai? Mi era stata data in prestito dalla dama del lago. Ora trasportami fino alla riva». Bedevere lo alzò per l'ultima volta, ma quando raggiunse il lago vide che, attraccata fra le canne, c'era una barca bassa, drappeggiata da prua a poppa con un panno nero. 3 donne velate, vestite di nero, stavano dritte sulla riva e lo esortarono così: «Mettilo a giacere nella barca, Bedevere. Il tuo compito è finito». Avvolto in un drappo a prua della barca, sembrava che Re Artù dormisse. Appena Bedevere fu sceso, la barca si allontanò dalla riva e scomparve nella nebbia che avviluppava il lago. «Dove lo portate?» gridò Bedevere, e la risposta fu: «Ad Avalon, ad Avalon». Fu quella l'ultima volta che un mortale vide il re, il più grande cavaliere che abbia mai indossato una corazza, il più grande eroe che abbia mai usato una spada. Ma c'è chi dice che Artù non è morto, che le erbe di Avalon lo hanno curato e che egli dorme, esausto da tante battaglie. Dicono che se il paese fosse in pericolo e avesse bisogno di valenti guerrieri, Artù e i suoi coraggiosi cavalieri potrebbero tornare un giorno dalla magica valle di Avalon.